stasera ti cerco anch'io. Mano nella mano in quella foto che ormai tramutato in musica sei. Dolce armonia questa è per te. Say